versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana, questo è lunedì 3 marzo del 2014, sono le 16.34 primi 5 secondi, siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano. Certo, c'è purtroppo, non posso che dire, maledetta brevità di questa trasmissione, vedi qui tra quello che sta succedendo in Ucraina, inciso, capite cosa vuol dire aziende pubbliche come Eni e Enel dello Stato? Perché è per via degli interessi di Eni ed Enel in Russia e per evitare quindi le ritorsioni che l'Italia ieri in queste ore sta adottando la linea che non è quella della Francia e della Germania, cioè di tirarsi indietro dei preparativi del G8 per dire alla Russia non puoi violare i trattati che hai firmato perché li sta violando la Russia. Ecco, però non parliamo di questo oggi e non parliamo soprattutto degli Oscar meritatamente vinti questa notte, l'Oscar vinto questa notte da Sorrentino, perché di quello ne parlano tutti, ma invece l'interrogativo che ci poniamo, quindi ascoltatori napoletani, ma non solo napoletani, se volete dirci la vostra e la vostra puntata, perché all'800240024 o al 3492386666 diteci cosa pensate in risposta a questa domanda. Ma dopo il Salva Roma, il decreto di cui ci siamo occupati venerdì, che il governo ha tentato, per così dire, di impacchettare con salvezza sì a Roma, ma un piano di rientro. Io continuo a pensare che escludendo le partecipate che offrono direttamente servizi, cioè ATA che ama a Roma le vere piaghe, voglio vederlo questo piano di rientro. Ma comunque la domanda è: ma dopo il Salva Roma ci sarà anche il Salva Napoli? Perché lo ricordiamo, a Napoli il sindaco De Magistris, che è in predissesto dall'anno scorso, ha presentato, come prevede la norma del testo unico enti locali, un piano pluriennale per il rientro del debito, però la Corte dei Conti a metà gennaio l'ha respinto e nelle ultime ore, giorni del governo Letta, De Magistris si era recato a Palazzo Chigi per dire: ragazzi, se fate l'uno dovete fare anche l'altro. E la domanda che quindi vi poniamo è: vi aspettate anche un Salva Napoli giusto così perché Roma sì, Napoli no, perché solo Alessandria e Caserta finiti in default quando Roma viene risalvata dopo quella del 2008 e così via? Ricordo a tutti che il sindaco De Magistris è dell'idea, l'ha più volte spiegata, di prendere i debiti degli ultimi 10 anni di Napoli, stiamo parlando di un ammontare finanziario di circa 2,5 miliardi di euro, fare un'amministrazione commissariale separata, esattamente come del resto fece il governo Berlusconi quando arrivò alle mani sindaco di Roma nel 2008 rispetto ai debiti pregressi delle amministrazioni di sinistra, e ripartire da zero, per così dire. Questa è l'idea di De Magistris, basata sull'analogia del caso romano. A dire la verità, i giornali nazionali non si sono resi conto che già nel Salva Roma però ci sono delle misure esattamente per Napoli e per gli altri comuni in predissesto. Che cosa ha stabilito il decreto di venerdì? Che per le città in predissesto ci sia il blocco delle azioni esecutive, quindi per esempio a Napoli, grazie al decreto legge emanato venerdì, non si possono più fare le procedure esecutive a carico delle municipalizzate, in particolare per esempio il trasporto pubblico campano, sono vietate azioni esecutive verso le società che gestiscono il trasporto pubblico locale. E nello stesso Salva Roma è stato consentito esplicitamente a chi ha avuto il piano di rientro pluriennale bocciato dalla Corte dei Conti, guarda caso Napoli, di poterne presentare un altro entro i prossimi 90 giorni. Quindi già c'è una boccata di sollievo, per così dire. Il problema è se è una boccata di sollievo che prelude all'accoglimento della richiesta di De Magistris oppure no. Io non voglio fare demagogie nordiste contro il sud, il problema è la simmetria, e io credo che la simmetria nel trattare caso da caso di città è qualcosa che non fa bene a nessuno, non fa bene agli amministratori virtuosi e non fa bene naturalmente ai dirigenti, ai dipendenti sia dei comuni che delle società controllate dai comuni, che a questo punto protestano perché dicono: ma perché dovreste assumere misure contro di noi, visto che poi voi continuate nel solito andazzo. Vi ricordo solo, prima di presentarvi l'ospite che ne sa molto più di me e ci esporrà il suo punto di vista, che ancora 2 giorni fa, nell'inaugurazione da parte dell'anno giudiziario da parte del procuratore regionale Tommaso Cottone a Napoli, è tornato nella sua relazione Cottone a denunciare tutto tutti gli effetti negativi delle partecipate degli enti pubblici in Campania e Napoli, ha fatto un bel elenco delle azioni di responsabilità avviate nel 2013 nei confronti di amministratori e dipendenti di queste società. A Napoli Servizi, per esempio, presunto danno erariale da 1.553.000 euro, ANM 3.926.000 euro per la mala gestio, ABC, Exarin, Net Service 3.052.000 euro, Mostra d'Oltremare di Napoli 174.000 euro per scelte di gestione di carattere palesemente antieconomico. Ecco, questa è la situazione nei confronti della quale la magistratura contabile continua a dire: signore, dovete cambiare assolutamente marcia. Ecco, questo è il quadro. Ora vi presento l'ospite, che è il direttore del Mattino, lo storico grande quotidiano napoletano di tutto il Mezzogiorno, e con noi Alessandro Barbano. Buon pomeriggio e grazie, direttore. Buongiorno Oscar. Allora, è difficile saperne più di te. Beh, sì, perché hai fatto un quadro, oltre che realistico, completo e sintetico del contesto napoletano. Un modesto osservatore esterno. Il problema è che il direttore del giornale di Napoli tutti i giorni c'ha il polso della città, dei lettori, e vede il sindaco e pensa un po'. Quindi la situazione come la vede il direttore del Mattino? La situazione, diciamo, io credo che De Magistris non si aspetti più di quanto ha avuto, e francamente nessuno penso che possa aspettarsi di più, e cioè la possibilità di rifare questo piano e di farlo meno menzognero di quanto sia stato nella prima battuta, e quindi provvedendo a fare una serie di cose che portano a un risanamento, o quantomeno lasciano intendere che il risanamento possa essere possibile in un arco di anni lungo, 10 anni è un tempo lungo, durante i quali, è bene dirlo, i cittadini napoletani pagheranno i tributi locali con le aliquote massime, quindi il prezzo del dissesto e dell'irresponsabilità delle classi dirigenti del Mezzogiorno e di Napoli lo pagano i cittadini. Primo punto acclarato. Che cosa farà De Magistris? Cercherà di dismettere alcune società partecipate, cosa che è il contrario di quello che ha fatto in questi 3 anni, avendo inglobato esternalità, servizi che erano esternalizzati dentro la struttura comunale. Cercherà di vendere queste società partecipate, di vendere delle quote. Ovviamente il punto di mediazione della politica è quello di riservare sempre alla politica, se non la quota di maggioranza, quantomeno un controllo. E questo scoraggia la partecipazione dei privati, perché scoraggia i processi di efficientamento che i privati possono fare dentro questi servizi, che sono deficitari, perché è bene dirlo, a Napoli i cittadini di Napoli pagano le tasse già più alte per avere i servizi peggiori, e questo è il primo vulnus che riguarda i cittadini. Dopodiché cercherà di fare un piano di dismissioni del patrimonio comunale, che effettivamente è una operazione non velleitaria ma difficile in un contesto di mercato in cui non è facile vendere beni, e poi probabilmente dovrà procedere anche a regolare meglio alcuni conti interni alla macchina proprio comunale, ai servizi comunali e al personale del comune. Queste due o tre cose potrebbero indurre la Corte dei Conti, il cui giudicato viene semplicemente spostato in avanti, a rivalutare il piano inviato dal Comune già bocciato e a riconsiderarlo. Ecco, una posizione di merito: nel mentre noi difendiamo le ragioni dei cittadini innocenti e onesti che pagano più tasse per avere servizi peggiori, e quindi non possono essere coloro che pagano il prezzo di questa situazione, perché sarebbe paradossale, saremmo non dentro un paese solidale ma dentro un paese fatto di enclavi dove ognuno risponde dei propri capi tribù, e quindi, cari napoletani, vedetevela da voi, peggio per voi che eleggete questi amministratori, non può essere questo lo spirito. Però è pur vero che un principio di responsabilità per chi amministra deve valere, e quindi è inimmaginabile che si possano configurare provvedimenti ad hoc di salvataggi, così come quelli che hanno segnato la storia dell'irresponsabilità degli amministratori, i quali nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno, perché l'esperienza di Roma ci dice, e di anche altri comuni del nord, che non è solo una malattia del Mezzogiorno, si pongono una volta saliti a palazzo come gli amministratori di condominio, i quali non fanno più riferimento alla rappresentanza politica che li ha portati lì e quindi agli utenti cittadini beneficiari dei servizi che un comune deve assicurare, ma i loro riferimenti sono invece i dipendenti e le corporazioni, i microinteressi delle macrostrutture comunali, che sono delle superfondazioni burocratiche e corporative dalle quali i sindaci finiscono per dipendere e i cui umori, i cui bisogni, le cui pressioni diventano determinanti. Questo ribaltamento, cioè, che poi è simile a quello dei ministri che salgono al ministero convinti che si cambia tutto e due giorni dopo i mandarini del ministero li hanno convinti del contrario, è un po' lo specchio della fragilità manageriale e amministrativa dei sindaci, che dovrebbero essere anzitutto dei buoni amministratori, ma non lo sono perché non hanno una cultura dell'amministrazione e spesso vengono da professioni che si fondano sulla irresponsabilità dei risultati. Il magistrato, i medici e altri sono professioni dove purtroppo la misurazione di qualità è qualcosa che è del tutto assente. E quindi portano poi questa cattiva esperienza dentro il circuito delle loro relazioni amministrative. Direttore, molti nostri ascoltatori ci mandano dei messaggi che fanno riferimento a una cosa che sui quotidiani nazionali è rimbalzata dovunque la settimana scorsa, e cioè la valutazione che a Napoli uno su due dei tributi, delle tariffe, eccetera, eccetera, non viene pagato. E allora la domanda è: ma è per l'incapacità delle amministrazioni locali di farsi pagare? È perché i napoletani a questo punto, di fronte a quell'incapacità, si regolano storicamente? Qual è la sua impressione? Un momento però, allora, perché ci sono 60 secondi di informazioni sulle strade e poi ridò la parola al direttore del Mattino. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, abbiamo con noi il direttore del Mattino. La domanda di questa puntata è se dopo il Salva Roma ci attende un Salva Napoli. Il sindaco di Napoli, De Magistris, più volte aveva sostenuto questa richiesta. Il direttore del Mattino ci dice no, è difficile che possa avere più una protrazione che ha già avuto venerdì nel Salva Roma per presentare un altro piano pluriennale dopo quello respinto dalla Corte dei Conti. Veniamo al punto di questa valutazione che un napoletano su due non paga quello che bisogna pagare a Napoli. Da che dipende? Allora, l'evasione è forte, non riguarda tutti i tributi, c'è una media del 30% di alcuni tributi non pagati, uno su due è un'esagerazione, è una lettura semplicistica, certamente c'è una forte evasione. Dipende da un corso amministrativo che si è storicamente strutturato negli anni e è diventato un sistema fallimentare, perché quella lettura che altrimenti viene data sulla antropologica mancanza di senso civico dei meridionali non spiegherebbe come mai ci sono città nel mezzogiorno d'Italia dove tutti pagano le tasse, i servizi funzionano e sono più efficienti o comunque ugualmente efficienti quanto al nord. Napoli è un esempio di cattiva amministrazione che nel tempo ha prodotto un risultato disastroso. A ciò si aggiunga il fatto che i tributi poi sono cresciuti in maniera inversamente proporzionale all'evasione, cioè l'evasione è forte e i tributi locali sono ancora più forti. Noi abbiamo l'altro giorno raccontato in un'inchiesta di Marco Esposito come appunto i cittadini napoletani che pagano per esempio per le polizze auto due volte quanto paga un cittadino milanese e pagano una volta e mezzo quanto paga un cittadino milanese per la TASI e lo stesso per l'IRPEF, e quindi tutta una serie di tributi che pagano in quantità molto maggiore. Se poi noi mettiamo a confronto questa quota in valore assoluto pagata dai cittadini napoletani onesti in relazione alla qualità del servizio fornito, ci rendiamo conto di quale vulnus subiscono costoro, e quindi è evidente che il problema è un problema di governo amministrativo corretto della città. È chiaro che noi in una logica di federalismo premiale lo scarichiamo sul questo è il sistema paese, così come funziona negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 10 direi, lo scarichiamo sulla responsabilità dei cittadini colpevoli di aver eletto un sindaco inefficiente. E probabilmente lo Stato non conosce un altro meccanismo di intervento, però questo meccanismo suona profondamente ingiusto. A ciò si aggiunga anche un'altra cosa, che la Svimez ha fatto una stima, uno studio dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, cioè che sono sostanzialmente i servizi garantiti dall'articolo 117 della Costituzione relativi a funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, per vedere qual è il livello di erogazione, o meglio il rapporto fra la spesa impegnata dallo Stato in questi servizi e il fabbisogno stimato dei cittadini. Bene, il rapporto tra Napoli e Roma, Milano e Torino, in alcuni servizi come la scuola materna, come l'istruzione elementare, come l'illuminazione pubblica, diversi servizi vedono sostanzialmente la popolazione napoletana godere di un livello di copertura enormemente più basso di quello che avviene nelle realtà, nelle città del nord, ma anche in città come Roma o in altre città italiane, non del Mezzogiorno, perché in questo il Mezzogiorno evidentemente paga il prezzo di questo federalismo premiale, che sta diventando una condanna. Allora, è evidente che noi partiamo da condizioni di cattiva amministrazione, che c'è una classe dirigente che non funziona, esattamente come non funzionava la classe dirigente della Germania dell'Est il giorno della riunificazione nel 1989, quando la Germania dell'Ovest decise di inviare non solo capitali, uomini e mezzi, ma anche classe dirigente, anche funzionari che portassero cultura di governo. E questo, secondo me, è il grande problema, nel senso che la Germania in 20 anni ha fatto quello che noi in 150 e rotti anni non siamo riusciti a fare, visto che il gap si è aggravato nei confronti del sud. C'è un'alluvione di ascoltatori che dice: ah, ma come, hai chiamato il direttore del Mattino? Il direttore del Mattino difende i napoletani. State attenti però voi in ascolto. Per esempio, vi ricordo che proprio ieri, twittando con Roberto Maroni, io dicevo a Roberto Maroni: ma perché tutti i sindaci di amministrazioni virtuose non protestano loro per primi, facciamo raccolte di firme con i cittadini per questa asimmetria? Perché io credo che dal basso bisogna farle queste cose. Lui mi ha risposto: ma però va bene all'ANCI questa roba, sbaglia Fassino. Sono d'accordo, ma se la giunta nazionale dell'ANCI invece batte le mani ai provvedimenti asimmetrici, i sindaci e i loro cittadini insieme possono raccogliere le firme contro, per esempio. Io questo lo farei. Il problema però è che il direttore Mattino dice che sono le cattive amministrazioni e la cattiva politica che nei decenni stratificano questo tipo di comportamenti. Io sono totalmente d'accordo, perché sennò non vi spieghereste perché a Salerno, e qui non si tratta di difendere gli eccessi personali di De Luca, il viceministro, sindaco intoccabile del PD e così via, però le cose funzionano diversamente perché c'è stato per anni e anni una diversa attenzione dell'amministrazione e una diversa, per così dire, rendimento della politica locale. E non sto difendendo, ripeto, il sindaco, è una questione nei decenni che si accumula, e nei decenni provoca poi il fatto che ci sono province del sud dove l'evasione IVA è superiore al 40%, mentre invece se andate al nord, e lo dice l'Agenzia delle Entrate, andate in Veneto è tra il 12 e il 15. Ma questo non potete pensare che sia il DNA, che siamo nati così. Questo è lo Stato come tocca la gente diversamente che provoca questa roba. Io sono completamente, difendo il direttore del Mattino in questo. Sentiamo Gaetano che ci chiama da Napoli. Come la pensa Gaetano? Buongiorno, mi sente dottor Giannini? Sì, sento benissimo, prego. Allora, io vorrei invitare a guardare quelle che sono le delibere del Comune di Napoli. Cioè, da mettersi le mani nei capelli per come spendono i soldi pubblici. A Napoli si sono fatti grandi eventi, con i grandi eventi si sono spesi milioni di euro. Io mi domando cosa ritorna alla città. Questi soldi si spendono per favorire amici, parenti e conoscenti. E questo stavamo dicendo, infatti. Bisognerebbe, difatti, io per avvalorare ciò che lei dice, ho visto le delibere del Comune, c'è da mettersi le mani nei capelli per come spendono e spandono i nostri soldi. Quindi prima ancora di dover andare a sanare il cubo. Bisogna vedere come nascono i debiti. Hai ragione, Gaetano, e ricordo a chi è in ascolto e non lo sa che quando venne formata la giunta De Magistris, sapete anche Napoli come è avvenuto a Roma, Cagliari, a Bari, eccetera eccetera, una debacle per il PD e un sindaco che veniva da fuori sconfiggendo quelli del PD. Detto questo, l'assessore Bianco che aveva preso il professor Riccardo Re Alfonso, che di tutto è imputabile tranne che di non essere di sinistra, per chi lo conosce, lo mise sull'avviso dicendo: guarda che così tu vai a sbattere. E il sindaco De Magistris scacciò Re Alfonso, anzi gli ha fatto pure causa per 1 milione di euro, però i numeri danno ragione a Re Alfonso. Sentiamo come la pensa Marco, che ci chiama da Modena. Prego Marco. Sì, Giannino. Sì. Buonasera. Buonasera. Ministro dell'economia, Giannino. Beh, sì, magari. No, mi piace quando si infervora anche. No. E gliene dice due, punzecchia e fa bene. Allora. No, io volevo intervenire perché faccio parte della maggioranza di un piccolo comune che l'altra sera, tra l'altro, ci siamo proprio riuniti. E niente, abbiamo noi, comune Formica, abbiamo 600.000 euro insomma, siamo comuni di quelli virtuosi. Sì. Allora, a noi la gente lì ha incominciato a inveire, a dire: ma scusate, ma noi non possiamo, voi non potate le piante, non ci chiudete le buche. Noi abbiamo 600.000 euro da una parte e non possiamo spendere per questo cavolo di patto, mi scusi, mi infervoro anch'io. Sì, sì, il patto di stabilità interna. E poi vediamo Roma che fanno quello che fanno. Napoli sta quasi fallendo. Ma lei, direttore del giornale di Napoli, lo venga lei a dire ai cittadini qua, ma non importa essere leghisti per quello che stiamo dicendo. Ma qui non si tratta di essere... Guardi, ma mi scusi, Danilo, dopo lo lascio andare. Prego. Ma perché allora è fallito il comune qua su di, mi corregga se mi sbaglio, Alessandro. Allora questo cos'era? Perché è fallito questo comune? E infatti ne abbiamo parlato venerdì, la simmetria di questa roba. Allora direttore, il punto è che io sono convinto che questa simmetria genera nei confronti poi dei romani e dei napoletani e così via le reazioni che ascoltiamo. Amici in Veneto mi dicono: il salva Roma, qui la gente vorrebbe spaccare tutto, e se la prendono con i romani e i napoletani invece che con i politici. Come si fa a evitarlo, direttore? No, io non sono in disaccordo con quello che diceva il cittadino che qui ha parlato, perché nessuno invoca provvedimenti e salvagente per Napoli, assolutamente. Quindi è inevitabile che in questo momento, se la giunta non riuscirà a mettere in piedi un piano convincente di risanamento, si vada in default. Ma come è giusto che sia. Oh, si vada in default, dice il direttore del Mattino. Vediamo se andrà a finire così. Comunque, abbasso la simmetria. Tutti come Alessandra, continuate su Radio 24.